Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, i temi di oggi parleremo, torneremo di nuovo su una decisione contenuta nel decreto del governo, decreto anticrisi, che sta facendo molto discutere, ossia la retroattività. Ci arriveremo tra un attimo, ma insomma, quello che è successo è che una norma che prevedeva di poter detrarre il 55% di quanto si era speso per aumentare l'efficienza energetica e quindi il risparmio energetico degli appartamenti o delle costruzioni in generale, ebbene, da quello che è presente nel decreto, questo 55% in sostanza riuscirà ad averlo solo 1 su 10, visto che le richieste sono state l'anno scorso di 900 milioni di euro e invece il plafond, il fondo a disposizione per l'anno in corso è di 80 milioni di euro. Ora, immaginando che anche quest'anno siano stati fatti i lavori di appunto coibentazione, insomma, di risparmio energetico con l'obiettivo di poter detrarre il 55% della spesa, ebbene 85 milioni è il fondo destinazione, sono i soldi disponibili, 850 almeno saranno le richieste, 1 su 10 ce la fa, gli altri avranno altre possibilità sicuramente più svantaggiose. E su questo ci sono molte polemiche. Torniamo sul tema, l'abbiamo già fatto ieri, ma Salvadanaio se ne occuperà giovedì dalle 12 in poi, però torniamo sul tema perché continuiamo a ricevere messaggi, email di ascoltatori come dire inferociti per una norma che ha un carattere retroattivo con investimenti già fatti e che chiaramente in molti casi non sarebbero stati fatti se si fosse saputo che non era poi possibile detrarre almeno il 55% della spesa prevista, anche perché l'alternativa è oggettivamente più svantaggiosa. E quindi apriremo sul bonus del 55% di sconto fiscale che viene di fatto largamente tagliato, ripeto, anche in maniera retroattiva. Questa è la cosa che lascia più perplessi, perché un conto è dirlo per l'anno prossimo, un conto su quanto già avvenuto, anche perché, come fanno notare molti osservatori, in realtà in quel caso non si va, lo Stato non va a perdere, diciamo, un imponibile, perché sono tutte spese che senza quello sconto non sarebbero probabilmente state nemmeno fatte, per cui non è come dire vado a fare una riduzione fiscale su un imponibile comunque già esistente, ma si va a levare una riduzione fiscale su un imponibile che senza quella riduzione fiscale non si sarebbe probabilmente nemmeno creato. Andiamo avanti sulle notizie, parleremo come sempre di borse. Oggi, dopo un avvio difficile, perché questa mattina la chiusura di Tokyo era stata bruttissima, meno 6,3% e meno 5% Hong Kong, dopo un avvio difficile invece le borse europee da metà seduta, un po' prima della metà seduta, in tarda mattinata, hanno girato tutto in positivo e si mantengono positive. Il MIBTER guadagna l'1,3%, l'S&P MIB l'1,6%, è tornato sopra i 19.000 punti. Francoforte guadagna il 3,4% della migliore, Parigi il 2%, Londra è la più debole, guadagna appena lo 0,5%. Bene Wall Street, più 2,2% il Dow Jones e più 2,4% l'indice Nasdaq, mentre l'euro va a 1,2722, quindi si rafforza leggermente, e ciò nonostante il petrolio è di nuovo ai livelli più bassi da 3 anni a questa parte. Ora, non era mai successo a mia memoria che una materia prima potesse calare del 60% circa nell'arco di 3 mesi. Insomma, a luglio ricorderete che il petrolio viaggiava a 140 dollari al barile, con diversi record toccati di settimana in settimana. Addirittura i mitici analisti prevedevano un petrolio a 200 dollari al barile come minimo. Tutti sicuri, tutti certi, in realtà siamo oggi a dei livelli, ripeto, i più bassi da 3 anni a questa parte. Ha fatto praticamente a luglio 147,27 dollari il petrolio, oggi è a 49,80, sono quasi 100 dollari di differenza ed è sotto i 50 dollari al barile. Buona notizia per noi, ossia per chi ha da pagare il riscaldamento e fare il pieno della macchina, anche perché l'euro invece nel frattempo si mantiene a 1,272, quindi non ha perso valore. Parleremo poi del vertice Ecofin, è in corso la conferenza stampa del ministro Tremonti, vertice dei ministri economico-finanziari dell'Europa a Bruxelles. Tremonti, adesso lo ricorderemo anche nelle notizie in breve, non ha escluso che possa essere posta la fiducia in Parlamento sul decreto anticrisi. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le notizie in breve, stiamo sull'Alitalia, perché la nuova Alitalia partirà dopo le vacanze di Natale per evitare congestioni durante le feste. Lo ha chiarito oggi il ministro alle attività produttive Claudio Scajola, che tra l'altro poi ha anche chiarito che la data del 1° dicembre non è stato possibile mantenerla perché c'erano situazioni operative, il cambio della casacca e poi sotto il periodo natalizio sarebbe stato peggio che mai, e quindi dopo le vacanze di Natale. Però non si è capito bene perché il commissario straordinario Fantozzi ha detto, ha precisato: io sono tenuto ad adottare tutti gli atti necessari e opportuni per assicurare previo accordo con la CAI la prosecuzione del trasporto aereo da parte del Gruppo Alitalia sino e non oltre il 12 gennaio. Quindi a questo punto la data dovrebbe essere il 12 gennaio o il 13 gennaio. Nel frattempo continuano le operazioni nel mondo dei cieli. British Airways ha in corso un negoziato per fondersi con la compagnia di bandiera australiana, la Qantas, dopo che il governo australiano ha allentato le restrizioni sulla proprietà della compagnia. Ricordo che British Airways ha anche in corso le trattative per fondersi con Iberia. Andiamo avanti e invece parliamo del settore auto, dopo i dati da brivido di ieri, arrivati sia dati spagnoli che dati francesi, ma anche e soprattutto i dati italiani. Ebbene, oggi dall'America arriva la notizia che la Ford non avrà nessuna crisi di liquidità nel 2009, però la casa di Detroit sta cercando di convincere il Congresso americano a stanziare ulteriori fondi a favore dell'industria automobilistica. In particolare, Ford starebbe cercando di ottenere un prestito ponte da 9 miliardi di dollari. E tra l'altro il piano della Ford per convincere il Congresso americano prevede investimenti per 14 miliardi di dollari e prevede anche che il numero uno della Ford, Alan Moulay, venga retribuito con un dollaro all'anno. E questa del salario a un dollaro all'anno, io lo dico perché l'America, con tutti i difetti che ha, poi quando si muove in maniera molto coerente, non come da noi in cui ci sono polemiche perché non si riescono a pagare i manager perché c'è un decreto che blocca il loro stipendio, ma insomma qui in America tutti i numeri uno dei colossi automobilistici stanno adottando stipendi a un dollaro all'anno. L'ho fatto anche il numero uno di General Motors, Wagoner, perché Rick Wagoner ha chiesto di essere retribuito con un dollaro all'anno anche lui per convincere il Congresso americano ad aiutare l'industria automobilistica. Questa è la linea presa da Ford e da General Motors. Tra l'altro, sempre Rick Wagoner, per andare a Washington, dove incontrerà il Congresso americano, ha deciso di utilizzare la sua automobile e non il jet aziendale, quindi guiderà 10 ore per andare da Detroit a Washington, e la stessa cosa farà anche il numero uno della Ford, Alan Moulay. Per carità, sono gesti simbolici, ma insomma ben vengano, visto che poi 10 ore in macchina i due numeri uno se le fanno. Fino a ieri erano abituati a prendere il jet aziendale privato. Trimestre probabilmente in rosso, con 2 miliardi di dollari di perdita per Goldman Sachs, sarebbe la prima in assoluto nella sua storia. Goldman Sachs finora ha effettuato svalutazioni per 5 miliardi di dollari. Sempre in tema di banche, ma veniamo all'Italia. Oggi l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, in un'intervista alla Radio Vaticana, ha detto: se le banche italiane sono solide, anche grazie al mio tradizionalismo. Il tradizionalismo, spesso criticato e rimproverato, ha spinto però le banche italiane a fare le banche e quindi ad essere più solide di fronte alla crisi finanziaria in atto. Sempre in tema di banche, il direttore generale dell'ABI, Giuseppe Zadra, oggi a Trieste, nel corso dei Nobel's Colloquia, ha detto che in Italia non si può parlare di stretta sul credito, di credit crunch, perché il credito erogato dalle banche cresce dell'11%, lo ha confermato al microfono il nostro Paolo Piacenza. Sono dati ufficiali, disponibili, va bene, e dicono più 11%. Mi pare contraddittorio parlare di credit crunch e avere un incremento della massa di prestiti dell'11%. Però c'è una preoccupazione espressa più volte dagli industriali, voglio dire, anche solo ieri Montezemolo ha parlato di un rischio della stretta del credito per le piccole e medie imprese come uno dei tre grandi rischi, dei grandi tre grandi nodi da affrontare. A me pare che l'argomento che io uso è che si può parlare di rischio, nel senso che io non posso contraddire chi avverte un rischio. Sto dicendo che non c'è e che ormai sono invece 3 mesi che in Italia si dice che c'è, e io sto contraddicendo l'affermazione che riguarda il presente e il passato, non il futuro. In termini quindi di sentimento e anche di numeri, allora, l'impressione, la valutazione sul futuro è che questi rischi siano sopravvalutati a suo avviso? I rischi sono sopravvalutati. Quello che a Palazzo Chigi noi abbiamo sostenuto quando il Presidente del Consiglio ha presentato il provvedimento, dico: Presidente, qua abbiamo, questi sono i nostri dati, e quindi non è questo il fronte che vi deve preoccupare. Oltretutto gli investimenti sono in riduzione e di conseguenza il credito sta già sostenendo gli attivi delle imprese rappresentati da magazzini e crediti, non investimenti. E quindi stiamo già finanziando due poste che normalmente, quando si gonfiano, è perché non c'è vendita. Va bene, quindi l'ABI dice, attenzione, i dati che noi abbiamo a disposizione dicono che il credito erogato è cresciuto dell'11%. Sempre sul fronte bancario, oggi i clienti di Unicredit hanno ricevuto l'offerta da parte del gruppo Unicredit a sospendere il pagamento della rata del mutuo gratuitamente per un periodo massimo di 12 mesi. L'iniziativa non riguarda tutti, riguarda solo le famiglie con un reddito fino a 25.000 euro lordi al momento della sottoscrizione del mutuo, però riguarda oltre 260.000 famiglie, cioè il 30% di tutti i mutui erogati da Unicredit. Ebbene, queste famiglie, se in difficoltà, potranno sospendere per 12 mesi gratuitamente il pagamento delle rate. L'iniziativa si chiama Insieme 2009, evidentemente, anche se non c'è una stretta sul credito, difficoltà nel mantenere il pagamento del mutuo ci sono, altrimenti l'iniziativa non sarebbe stata presa, ma è la prima nel suo genere in Italia. Allora veniamo alle politiche contro la crisi. Mentre sta parlando da Bruxelles il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha espresso un giudizio positivo sul piano della Commissione per il rilancio dell'economia, e tra l'altro oggi l'Ecofin ha esaminato anche il piano da 200 miliardi, di cui in realtà pochissimi sono quelli europei, 30, il resto è la somma dei piani dei vari paesi. E tra l'altro poi il prossimo 11-12 dicembre vi sarà il vertice definitivo per una strategia europea contro la recessione. Tremonti ha confermato che il deficit del 2008 italiano dovrebbe essere quanto atteso, ha detto che sul decreto anticrisi potrebbe essere posta la fiducia, ha detto che si augura una buona discussione, compresa quella sulla norma per quanto riguarda l'aliquota di Sky, che ha confermato. Ma sempre per quello che riguarda oggi il decreto legge anticrisi, oggi il Ministero del Tesoro ha specificato che non c'è alcun blocco tariffario per autostrade, luce e gas, per cui ha precisato il Ministero del Tesoro, il dispositivo previsto dall'articolo 3 riguarda esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione. Ci asteniamo dalla comprensione, nel senso che oggettivamente vorremmo capire anche se poi c'è o non c'è il blocco tariffario. Prende atto invece con soddisfazione il Presidente dell'Autorità per l'Energia, Alessandro Ortis, delle dichiarazioni del Ministro del Tesoro e considerando l'andamento dei prezzi petroliferi si conferma la previsione nei prossimi mesi di un calo ulteriore delle bollette 2009 di luce e gas. E poi oggi il presidente di Atlantia Gian Maria Grospietro ha detto che così come ha attivato il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali da parte del governo non dovrebbe determinare un effetto particolarmente negativo perché conferma l'intangibilità dei contratti in essere. E quindi, così come capiamo da Grospietro, poi più avanti vi faremo sentire anche la dichiarazione, non dovrebbe esserci un blocco delle tariffe autostradali. E adesso veniamo al dato peggiore oggi diffuso dalla CISL nel suo rapporto Industria 2008. Ha detto che l'impatto della manovra anticrisi varata dal governo rischia di essere modesto. È la CISL, non è la CGIL, quindi è il sindacato, diciamo, che tendenzialmente non ha un atteggiamento ipercritico o co-critico nei confronti del governo. Anzi, però, di fronte al decreto anticrisi, dice la CISL, l'impatto sarà modesto, anche perché gli 80 miliardi, in realtà buona parte di questi soldi erano già stanziati e si tratta solo di accelerare le procedure di spesa. E poi dovrebbe essere modesto complessivamente, anche perché i provvedimenti non modificano gli obiettivi della finanziaria, sono molto ortodossi rispetto al patto di stabilità europeo di crescita e tra l'altro non tengono conto del fatto che secondo la CIS nei prossimi due anni sono a rischio nella sola industria manifatturiera e nell'industria delle costruzioni 900.000 posti di lavoro. E contro la norma, diciamo, del taglio al bonus del 55% è intervenuta oggi anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, a margine di un convegno da Lombarda su ambiente e sviluppo sostenibile, così ha commentato al microfono il nostro Stefano Totoro. Per quanto riguarda i provvedimenti del governo, noi abbiamo detto che sono provvedimenti positivi, che vanno nella giusta direzione su alcuni punti, però la crisi è talmente forte che è necessario fare di più e devono venire nuove risorse dalla rimodulazione dei fondi strutturali europei. Ci sono molti soldi, in passato sono stati spesi male, noi pensiamo che da questa rimodulazione debba venire uno strumento a supporto fiscale degli investimenti in innovazione, ricerca, tecnologia e risparmio energetico e dall'altra appunto un supporto al reddito delle persone che hanno redditi più bassi. È evidente che in questa situazione in cui si deve lavorare sul risparmio energetico, il provvedimento del governo che mette un tetto al 55%, no, di sconto sul risparmio energetico non ci vede d'accordo, perché se quella è la strada che dobbiamo percorrere non bisogna, come dire, evitare di avere effetti che blocchino questo tipo di investimenti sia sulle imprese che sui cittadini. E allora restiamo su questo tema perché, ripeto, molti sono i documenti che sono, e le email che ci sono arrivate per quello che riguarda cittadini, alcuni sono imprenditori, penso ad albergatori o a chi gestisce ristoranti, altri sono normali cittadini che l'anno scorso e quest'anno soprattutto hanno già investito in risparmio energetico con varie formule, anche perché sapevano che potevano godere di un 55% di sconto di detrazione sulle spese effettuate. Che cosa infatti prevedeva complessivamente la norma? Beh, prevedeva in sostanza che da un lato il bonus avesse un tetto, e ci mancherebbe, il tetto c'era, non si poteva detrarre tutto, però quello che sta succedendo è che, per dirla tutta, il nuovo tetto posto dal governo è intorno agli 85 milioni di euro. Siccome l'anno scorso sono arrivate domande per 850 milioni, immaginiamo anche che quest'anno la cifra resti ferma, vuol dire che uno su 10 non ce la fa. Ho capito bene, Marco Beninazzo? Esattamente, il discorso che fai è preciso e coglie nel segno di quello che è il problema e di quello che è il problema di cui si stanno accorgendo molti imprenditori che in questi giorni si sono ritrovati a dover fare i conti appunto con regole cambiate in corsa. Molti hanno fatto investimenti, per esempio c'è chi ha cambiato il tetto del capannone in Eternit per farne uno a risparmio energetico o comunque ecocompatibile, e ha fatto investimenti per, parliamo di investimenti di centinaia di milioni di euro, aspettandosi diciamo di poter detrarre appunto il 55%, perché era un'agevolazione automatica. Oggi invece si scopre che bisogna fare una richiesta all'Agenzia delle Entrate. Per chi ha fatto investimenti nel 2008 dovrà essere fatta diciamo tra il 15 gennaio e il 27 febbraio, e peraltro appunto non è affatto scontato che sulla base di questa sorta di prenotazione si possa ottenere il beneficio, perché c'è appunto un plafond, come dicevi tu, di 80 milioni di euro, dopodiché si dovrà aspettare eventuali diciamo ulteriori finanziamenti da parte dello Stato. Ecco, il plafond è un plafond da 82,7 milioni di euro contro gli 825 milioni di detrazioni concesse nel 2007. C'è chi ha risposto, beh attenzione, chi resterà fuori? Tra l'altro il meccanismo, Marco, consentimi, è un meccanismo assurdo, perché insomma, se poi lo ricordiamo anche, bisognerà presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate, vale... In via telematica all'Agenzia delle Entrate, tra l'altro l'Agenzia delle Entrate dovrà predisporre un nuovo modulo perché non è ancora diciamo disponibile, dopodiché c'è una sorta di silenzio rigetto, e tutti sappiamo insomma che non sempre la pubblica amministrazione è sollecita nel dare le risposte, per cui se trascorrono 30 giorni da quando si è fatta l'istanza e non si è ricevuto un assenso, insomma un sì, un ok alla prenotazione, va intesa come rifiutata la richiesta, per cui ci si deve mettere l'anima in pace. C'è un'unica diciamo, no, anche perché sì, io ho detto 1 su 10 non ce la fa, 1 su 10 ce la fa, gli altri 9 restano fuori. No, ma tra l'altro vale il meccanismo anche dell'ora in cui si presenta la richiesta, o no? Esattamente, esattamente. Cioè, l'ordine cronologico, se io sono il primo alle 8 di mattina, esattamente. Vada pazzi questa, assisteremo al click day, che per esempio c'è, sì, per quanto riguarda non so, le badanti, la possibilità di avere mesi di soggiorno, anche per questo tipo, sì, di incentivi, insomma alle 8 del mattino, immagino del prossimo 15 gennaio, tutti gli imprenditori attraverso i loro commercialisti o anche semplicemente chi ha fatto una ristrutturazione in casa, mettendo non so, i doppi vetri, no? Pensiamo a quanti. Sì, ma vale per tutto. Noi abbiamo ricevuto email di gente che ha e di ascoltatori che hanno appunto coibentato il soffitto, quello che ha isolato invece il riscaldamento, il boiler per risparmiare. Insomma, ci sono spese che vanno dai 18 ai 50 mila e anche più euro, anche perché la legge prevedeva e prevede, insomma, finché non cambia, che il bonus fiscale poteva essere applicato a un tetto massimo di spese tra i 54 e i 181 mila euro. Ecco perché dico, molti ristoratori e albergatori ci hanno scritto, perché è chiaro che se fai un'operazione di risparmio energetico su un edificio come un albergo arrivi a spendere anche 100 e passa mila euro. Abbiamo in molti casi di investimenti effettivamente consistenti. Peraltro il decreto si è preoccupato di chi appunto si è trovato cambiato le regole in corsa, solo che diciamo è una via d'uscita molto ma molto stretta, perché riguarda innanzitutto solo le persone fisiche, non anche magari le società che hanno fatto, certo, le imprese in genere che hanno fatto investimenti, e peraltro concede soltanto il 36% di sconto, non più il 55%, ed entro un tetto massimo di 48.000, quindi insomma si tratta di un'altra cosa evidentemente. È un'altra cosa. Allora adesso vedo che c'è chi la vuole buttare in politica, comunque vabbè, fatti suoi. A noi interessa capire cosa sta succedendo su questo decreto. Vi spiego perché. Facciamo un esempio: una persona che avesse installato dei pannelli solari spendendo 109.000 euro. Allora, col regime attuale recuperava 60.000 euro in 3 anni, cioè 20.000 euro l'anno. In realtà la spesa quindi era di 49.000 euro netti. Su 109 ne spendeva, ne recuperava 60.000. Visto che probabilmente non ce la farà a essere in quei pochi fortunati 1 su 10, si aggrapperà la detrazione al 36%. Con un tetto a 48.000 euro lui arriverà al massimo a 17.280 euro. Ora, tra recuperare 60.000 euro e recuperare 17.000, voi capite che la differenza è tanta. Primo. Secondo, molti ascoltatori scrivono al 349-238-6666, conveniva fare i lavori in nero, perché tutti questi sono poi lavori che hanno richiesto una fattura e quindi sappiamo come vanno queste cose. Se lo fai in nero ti si fa lo sconto, e se no invece la paghi tutta, e quindi in qualche modo si ributta verso il nero chi ha investito o voleva investire in risparmio energetico, al di là del danno comunque ambientale. Terzo aspetto su cui ti vorrei, dopo le informazioni meteo, la pubblicità, Marco, è il fatto che a differenza della badante, che è una spesa prevista ma non ancora realizzata, cioè qui tu vai a ridurre il vantaggio fiscale su un imponibile che di fatto si è generato solo perché c'era questo vantaggio fiscale, se no col cavolo la gente probabilmente andava a fare magari a sistemare e a coibentare il tetto, per cui non stai riducendo il vantaggio fiscale su un imponibile che comunque avresti avuto, ma è un imponibile che esiste solo perché c'era quel vantaggio fiscale. Di nuovo in diretta con Focus Economia e Sebastiano Barisoni per capire così le perplessità che oggettivamente molti hanno mosso, non solo sulle 24 ore, non solo questo programma e questa radio, su questa parte del decreto. Allora, molti di voi ci scrivono, ma insomma, se era così importante recuperare questi 800 milioni, 700 milioni che il governo recupererà, perché hanno levato l'ICI? Sono d'accordo, nel senso che a questo punto forse l'ICI, che tra l'altro sta levata a tutti, per cui senza andare a guardare al reddito, forse andava ripensata, e dall'altro perché hanno tenuto in vita l'Italia, che ci sta costando, come sappiamo, 2 milioni di euro al giorno. Questa è una lunga polemica, su questo non entrerei. Invece, per quello che riguarda tra l'altro il decreto, molti fanno notare che oltre che essere un imponibile sottratto al nero, perché appunto uno ha fatturato questi lavori per risparmio energetico perché sapeva che c'era una detrazione, si è creato anche un indotto, cioè noi abbiamo ricevuto anche messaggi non solo di privati cittadini o di imprenditori del settore turistico, ma anche di imprenditori che lavorano in questo settore, che hanno i clienti adesso infuriati per questo motivo. Vi leggo solo un'email che è arrivata poco fa ed è di un ascoltatore, non vi leggo il nome per motivi di riservatezza. Sono uno dei tanti che ha fatto dei lavori nel 2008, mi trovo nella provincia nord di Torino e ho fatto coibentare a cappotto la casa. Anche se il costo era un po' elevato per le mie finanze, ero certo di poter recuperare il 55% dopo la proroga fino al 2010, e alla fine l'ascoltatore perderà per questa operazione qualcosa come 30.000 euro, e questo è uno, potrei andare avanti con altri temi. Marco Bellinazzo, intanto ti convince il ragionamento che questo imponibile esisteva solo perché c'era il vantaggio fiscale, per cui è anche sbagliato parlare di un imponibile come se fosse esistito da solo? Credo che l'80 e il 90% di questi interventi siano stati fatti esclusivamente perché c'era questo tipo di incentivo. Il problema è che cambia tutto l'assetto degli incentivi fiscali con questo decreto, nel senso che questo sistema della prenotazione e del plafond verrà esteso ora automaticamente a tutti i tipi di incentivo. È chiaramente una misura che favorevole, diciamo, ai conti pubblici, no? In quanto dà una certezza della copertura, e andrebbe bene qualora appunto fosse stata approvata per il futuro. Il problema è che qui interviene su operazioni già fatte, violando, diciamo, lo statuto del contribuente, per esempio, tanto per dirne una. E noi ci stiamo oggi preoccupando giustamente del 55%, ma volevo segnalare che nel decreto c'è anche un'altra norma simile, diciamo, che sempre con effetto retroattivo, diciamo, danneggia chi ha fatto investimenti in ricerca. Anche per gli investimenti in ricerca fatti nel 2008, per i quali era previsto, diciamo, un rimborso del 10%, addirittura del 40% qualora si fossero, diciamo, realizzati interventi in collaborazioni con delle università, ed era appunto una misura che andava incontro alle richieste degli imprenditori di sostenere la ricerca, che è il fattore essenziale per la competitività. Ebbene, anche questi incentivi ora non sono più automatici, andranno richiesti, ripeto, anche per le operazioni, per le ricerche di ricerca effettuate nel corso del 2008, e anche qui c'è un plafond che è di circa 375 milioni per il 2008. 8, poi sale insomma negli anni successivi, ma probabilmente anche qui non sarà adeguato alle richieste. Anche qui si sono cambiate in corso le regole del gioco e ne parleremo insomma domani anche nel giornale, ma è un'altra notizia che sicuramente non farà piacere. No, hai ragione, anche perché allora, due risposte. Chi dice adesso siete a favore del nero non ha capito, mi scuso, la colpa sarà mia, il ragionamento che abbiamo fatto, cioè era una norma che faceva emergere da lavori che altrimenti, se uno li avesse fatti, perché non è nemmeno detto questo, ma se uno li avesse fatti, li avrebbe fatti probabilmente in nero, per cui era un modo per fare emergere il nero. Allora, si dice sempre che il sommerso deve emergere, poi quando emerge si fa una norma retroattiva. Si dice che bisogna essere più rispettosi dell'ambiente sulle emissioni, quando i cittadini appunto coibentano, isolano, fanno i doppi vetri, qualunque cosa avessero fatto per consumare meno energia, no? Sappiamo la linea, risparmiate energia, poi li bastoni con una norma retroattiva. Si dice che bisogna investire in ricerca e quando le imprese lo fanno, come spiega adesso Bellinazzo, poi in realtà anche in questo caso vengono penalizzate o rischiano di essere penalizzate sul fronte fiscale. Si dice che bisogna investire in istruzione e nascono le polemiche per i tagli di cui molti rettori si lamentano. Insomma, un po' di coerenza, come sempre, noi gli sconti non li facciamo a nessuno, qualunque sia il colore del governo. E questa è la linea da sempre. Ancora, andiamo avanti. Alcuni ascoltatori ci fanno notare invece che tra l'altro la possibilità, Marco, di applicare la detrazione al 36% con un tetto fino a 48.000 euro, tra l'altro viene spalmata in 10 anni, per cui oltre ad essere di gran lunga inferiore rispetto al vantaggio iniziale, tra l'altro ce l'ha in 10 anni. Anche qui, impianto climatizzato invernale che viene sostituito pagando 54.000 euro, quindi non per una piccola casa, sicuramente col regime del bonus si recuperavano 30.000 euro in 3 anni, con le detrazioni al 36% recuperi 17.000 euro in 10 anni. 1.700 euro all'anno, grosso modo. 1.700 euro all'anno, certo. Invece che 10.000 all'anno in 3 anni. Insomma, non è poca cosa. Ma immagino che qualcuno anche in questo voglia vedere un elemento politico. Noi andiamo avanti. I possibili ricorsi. Diciamo che oggi Tremonti ha detto che forse ci sarà la fiducia insomma su questo decreto, per cui il governo andrà avanti, e quindi qualora venissero, come dire, approvate queste norme in sede di conversione del decreto legge così come sono, io credo che ci sia spazio insomma per imprese e contribuenti per appellarsi insomma alle commissioni tributarie, perché effettivamente quella norma dello statuto del contribuente, che richiamo non a caso perché appunto sancisce un diritto che di tutti i cittadini a vedersi applicate diciamo nuove imposte o nuove regole soltanto per il futuro e non anche per il passato, può essere, ecco, una norma che non sempre viene rispettata, tutto in casi eccezionali come può essere questo, insomma, questo periodo caratterizzato da una crisi economica così evidente. Ma per esempio, se si dice che per il bonus ricerca si introducono queste novità per dare certezza delle strategie di investimento, insomma, qualche contraddizione nella norma c'è, e a mio avviso potrebbe essere fatta valere. Insomma, aumenteremo il contenzioso e si ridurrà quella che è la certezza, no, delle operazioni economiche a tutti i livelli. E, per cui secondo te è pensabile che, se veramente Tremonti, come ha annunciato oggi da Bruxelles, si andrà alla fiducia, magari il governo decide di applicare questa norma, ma dal 2009 in poi, perché insomma quello avrebbe un senso invece. Una correzione dal 2009, diciamo, che risolverebbe almeno i problemi che abbiamo evocato insomma in questi minuti. È chiaro che il problema è sulla retroattività. Per il futuro ogni governo può disporre, certo, ci mancherebbe, come crede. Uno può decidere anche che appunto l'investimento in ammodernamenti della casa che facciano risparmio di energia non è una priorità, però insomma da qua, dal futuro in poi, non retroattivamente, ci mancherebbe. Comunque staremo a vedere poi che cosa passerà di questo decreto, se veramente verrà messa la fiducia in Parlamento. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Allora, le borse, no, rispondo anche da alcuni ascoltatori, no, non si tratta di essere pro o contro il governo, si tratta di dire le cose come stanno, e se ci sono delle norme oggettivamente non reggono, anche perché come spiegava Marco Bellinazzo c'è il rischio di una valanga di ricorsi, lo si dice, non è che per forza di cose tutto quello che deve fare qualunque governo, Prodi, Berlusconi, e non mi interessa, debba andare bene. Si sono criticati i governi precedenti, anche i governi Berlusconi precedenti, anche il governo Prodi, e questa è una norma che oggettivamente va a penalizzare cittadini che hanno già compiuto un investimento. Punto e basta. In maniera retroattiva. Se dal 2009 si vuole levare l'agevolazione fiscale per chi investe in risparmio energetico, lo si facesse, ma non si può toccare chi gli investimenti li ha già fatti. Poi ognuno fa le valutazioni che vuole. Emersione dal nero, non emersione dal nero, risparmio e tutela dell'ambiente, indotto, perché comunque 850 milioni di richieste di detrazioni sono soldi spesi perché c'era la detrazione e quindi avranno generato nel comparto dei serramenti, dei condizionatori, dei coinventatori, un po' di indotto. A mio avviso sì, ma queste sono opinioni personali. La borsa buona oggi, la giornata, più 2,3% Parigi, più 3% Francoforte, più 1% Londra, più 2,6% il Dow Jones e più 2,8% in questo momento il Nasdaq. Milano più 2% sull'S&P MIB e più 1,7% sul MIBTEL. Ancora sentiamo che cosa è successo, come mai hanno anche girato metà giornata da Radio Corriere Sole 24 Ore con Paolo Paronetto. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. La mattinata era iniziata male perché Tokyo aveva chiuso con un meno 6,3%, poi? E poi sono iniziati, i mercati hanno iniziato a guardare alle previsioni di come avrebbe aperto Wall Street e fin da molto presto i futures sugli indici USA avevano indicato che i listini americani avrebbero tentato un rimbalzo in avvio e quindi tutti i listini europei hanno seguito questa tendenza e gli investitori sono passati all'acquisto anche sfruttando alcune opportunità derivanti dai cali di ieri e quindi che tutto il trend è girato e i mercati sono riusciti a chiudere con aumenti dell'ordine in media di 2 punti percentuali. Allora, vediamo i titoli. Molto bene oggi Alleanza, più 8%, Geox più 7%, Bulgari più 5,2%, Mondadori più 5%, Intesa più 4,40% come Monte dei Paschi, Terna più 4,3%, L'Espresso più 4%, Italcementi più 3,90%, Unipol più 3,5%, Telecom più 3,3% come Eni, il 3% lo guadagna Ubi, Buzzi più 2,80% e anche Autogrill, il 2,5% guadagna Tenaris e Unicredit più 2,5%, Parmalat più 2%, Luxottica più 1,8%, male invece il Banco Popolare, di nuovo debole, meno 4,2% sotto i 6 euro per azione, A2A meno 3%, Mediolanum meno 1,7%. Allora, Banco Popolare, immagino vicenda Italease, e A2A cosa c'entra Zaleschi? Allora, per il Banco Popolare si continua a pesare la vicenda Italease dopo la rottura delle trattative per una partnership con i tedeschi di ZBank. Oggi Italease ha messo segno un lieve recupero, ha chiuso a più 1,85%, ma la vicenda continua a pesare sul Banco Popolare, nonostante le rassicurazioni arrivate dal consigliere delegato Fabio Innocenzi, che ha detto che i conti del banco sono buoni e che l'andamento del titolo in questi giorni è una reazione anche speculativa e i valori di borsa non riflettono i valori del gruppo. Gli investitori comunque continuano a evidenziare un'incertezza e prudenza e anche oggi le azioni sono state vendute. Per quanto riguarda A2A invece è partita molto male fin dalle prime battute e quello di A2A è uno dei pacchetti di azione che secondo operatori di mercato potrebbe essere venduto dalla Carlo Tassara di Roman Zaleschi per riuscire a rimborsare le banche creditrici cioè Royal Bank of Scotland e BNP Paribas. La Tassara ha circa il 2,5 da 2A e gli operatori temono che questo pacchetto possa finire sul mercato. Ancora sui titoli, Atlantia alla fine ha chiuso un meno 0,8%. Io oggettivamente non ho capito, perché ho visto le dichiarazioni di Grosspietro, che è presidente, dice che non cambierà nulla, non ho capito se le tariffe sono bloccate oppure no. Il mercato che cosa pensa? Che sicuramente l'ha capito più di me. Sì, ecco, anche oggi appunto l'incertezza su questo tema che ha dominato il mercato sia ieri che oggi e proprio molti di questi titoli, Atlantia ma non solo, anche Terna e Snam Rete Gas, ieri sono stati penalizzati proprio dal timore del congelamento delle tariffe. Oggi è arrivata la precisazione del Tesoro che ha detto che questo congelamento c'è solo per i servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione e infatti alcuni titoli ne hanno beneficiato, in particolare Terna. Atlantia ha limitato sì i danni ma non è riuscita a chiudere in positivo perché nel frattempo era già arrivato comunque un downgrade da parte degli analisti di UBS che avevano consigliato sul breve termine di vendere il titolo, tagliando di molto anche l'obiettivo di prezzo a 13,6 euro da 19, e decisione motivata proprio dall'intervento del governo sulle tariffe che, nonostante poi le precisazioni, evidentemente dà un'incertezza in un tema che è cruciale ovviamente per un gestore autostradale, quindi i titoli non sono riusciti a tornare sulla parità. Allora, vediamo invece i recuperi, perché buoni sono stati. Per Alleanza vorrei capire se ci sono novità, nel senso che Alleanza ha guadagnato l'8%, bene anche Geox, dicevamo i bulgari, e poi in recupero anche alcuni energetici, Terna più 4,3%, Eni più 3,3%, e anche Enel ha chiuso la giornata bene, non riesco a trovare il dato, adesso ve lo darò. Andava meglio, anzi no, alla fine ha virato perché andava bene fino a poco prima della chiusura, poi ha fatto un meno 0,1%. Comunque Terna, Eni da un lato e Alleanza dall'altro. Sì, oggi i recuperi hanno riguardato alcuni dei titoli che avevano perso molto nelle ultime sedute, ad esempio Intesa San Paolo tra i finanziari è più 4,4%, su Alleanza invece non è stato segnalato nessuna notizia particolare dalle sale operative, si tratta di un rimbalzo dovuto probabilmente dal fatto che alcuni investitori istituzionali hanno deciso di prendere posizione sul titolo, mentre per quanto riguarda Terna sono proprio le precisazioni del Tesoro sul decreto anticrisi per quanto riguarda il blocco delle tariffe che ieri avevano portato il titolo a perdere circa il 6%, oggi d'altra parte l'hanno spinto alla rialza, chiusa più 4,34% quando il Tesoro ha precisato che il blocco riguarda solo i servizi della pubblica amministrazione e quindi non elettricità, gas o autostrade. Lo stesso andamento infatti è stato registrato anche da Snam Rete Gas, ieri in calo e oggi in rialzo dell'1,63%, e in generale tutto il comparto energia che ieri è stato molto penalizzato da questo fattore, oltre che dal calo del prezzo del petrolio. Oggi Eni ha guadagnato il 3,28, nonostante un petrolio comunque si mantenga debole sotto i 50 dollari al barile. Sì, sì, ai minimi da 3 anni. Eni riconquista 17 euro per azione. Ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666 di Fiat. Paolo, la ricordo poco mossa prima che iniziasse il programma, abbastanza piatta, vediamo, sì, più 0,7%. Esatto, ha chiuso più del 73 all'indomani dei dati sulle immatricolazioni europee che hanno visto un calo per Fiat di oltre il 28%, anche se il gruppo ha fatto comunque meglio del mercato. Comunque Fiat diciamo che oggi è rimasto un po' in coda rispetto al comparto auto europeo, che a livello continentale ha guadagnato oltre il 4% sulla scia dell'ottimo recupero dei costruttori statunitensi. In questo momento Ford guadagna oltre il 10%, che stanno presentando al congresso i propri piani industriali per poter ottenere dei finanziamenti pubblici. In particolare Ford ha annunciato una importante ristrutturazione aziendale con l'obiettivo di tornare al pareggio entro il 2011 e ha quindi chiesto un prestito al Congresso per favorire questo processo da 9 miliardi di dollari. E tra l'altro, appunto, come ricordavamo in apertura, i numeri uno di Ford e di General Motors si faranno pagare un dollaro all'anno e andranno a Washington a parlare con il Congresso guidando la propria automobile e non più con il jet aziendale. Piccole cose, ma insomma anche questo fa parte del segno dei tempi. Ancora tra i titoli, Seat più 1,6% in leggero recupero. Vorrei chiudere sul settore del lusso, nel caso specifico su Bulgari, non ne parliamo quasi mai, più 5,2%, nonostante un euro in rafforzamento. Ci sono novità? No, nessuna novità particolare, anche di qui, come abbiamo detto di recente, nelle ultime settimane, il settore dei consumi in generale, anche quello del lusso, ha risentito abbastanza dei timori generali di rallentamento economico, e quando si verificano giornate di recupero generalizzato degli indici, anche il comparto di solito riceve gli ordini di acquisto degli investitori che tornano nel settore. Oggi in particolare proprio Bulgari ne ha beneficiato chiudendo a più 5, ma anche Luxottica ha chiuso a più 1,81%. Allora, adesso c'è il nostro GR. Grazie intanto a Paolo Paronetti di Radio Corriere Sole 24 Ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo tornare sul tema della detrazione del 55% delle spese effettuate per il risparmio energetico, l'abbiamo fatto in, diciamo, in buona parte della prima ora, però insomma immaginiamo che gli strascichi e gli sviluppi ci saranno. Restiamo invece sul tema della crisi finanziaria. Perché? Perché oggi, se da un lato il rapporto della CISL, il rapporto sul Stato, sul settore industriale del nostro paese, è un rapporto abbastanza allarmato, nel senso che dice che sono a rischio nel prossimo anno 900.000 posti di lavoro, per la precisione nel rapporto Industria 2008 la CIS specifica oggi che nei prossimi due anni potrebbero essere in cassa integrazione o perdere il lavoro 900.000 lavoratori, già in bilico 180.000 lavoratori già esclusi dai contratti a tempo. E tra l'altro giudica modesto l'impatto del piano del governo sulla crisi economica, il decreto anticrisi di cui parleremo tra un attimo. Dicevo, oggi dal premio Nobel all'economia Robert Mundell, che ha parlato nel corso di questi interventi che vari premi Nobel all'economia stanno tenendo a Trieste, l'evento si chiama, è l'ottava edizione dei Nobel Colloquia, al microfono del nostro Paolo Piacenza ha suggerito quali ricette dovrebbero adottare i governi, a partire da quello americano, per superare la crisi finanziaria. La diminuzione delle tasse alle imprese negli Stati Uniti dal 35 al 15% potrebbe essere una soluzione. Ricordo che in Germania c'è stata una riduzione della tassazione dal 38,7 al 15%. Ciò che accade negli Stati Uniti è che al governo va il 35% dei profitti alle imprese. Trovo che sia ridicolo che il governo abbia acquistato asset di alcune società e che le abbia ricapitalizzate. Ciò che andava fatto era abbassare la tassazione alle imprese e lasciare che le stesse società si ricapitalizzassero da sole. Va ricordato che la tassazione alle imprese è una sorta di tassa doppia. Si tassano i profitti a livello societario e poi di nuovo a livello individuale. Penso che la riduzione della tassazione alle imprese sarebbe una misura eccellente anche per l'Europa. In Germania il governo ha operato un grande cambiamento. Prima aveva la più alta tassazione alle imprese di tutta Europa. Ora è una delle più basse. Non bassa quanto quella irlandese, ma comunque molto bassa. E questo è un segnale molto positivo per aiutare la ripresa economica tedesca e dell'intera industria del paese. E riguardo al sostegno dei consumi, è una misura che ritiene necessaria? Per ciò che riguarda il sostegno ai consumi, se possa essere una misura efficace è difficile dirlo. La Gran Bretagna ha ridotto l'IVA e probabilmente qualche effetto positivo ci sarà, ma credo che forse i benefici non saranno così grandi come ci si augura. E poi c'è da tenere presente il costo della misura, perché se comporterà un maggiore debito pubblico, allora ci saranno problemi significativi nel lungo termine. Il tema delle regole, lei ha parlato della necessità di un meccanismo di oscillazione fissa tra euro e dollaro per dare stabilità. Oggi ha lanciato l'idea di un ritorno a una sorta di moneta unica mondiale come prima del 1971. Perché è importante intraprendere una strada di questo tipo? Io non intendo una moneta unica nel mondo. Non credo che sarebbe positivo per l'economia mondiale se si facesse come in Europa, ossia avere una moneta unica eliminando le valute nazionali. È qualcosa che non può essere attuato su scala internazionale. Ciò che può essere fatto invece è creare una moneta globale da usare parallelamente con il dollaro e le altre valute. Potrebbe essere creato un modello in cui prevedere l'utilizzo delle tre maggiori valute al mondo, ossia il dollaro, l'euro e lo yen, come base per una piattaforma globale delle valute. Così Robert Mundell, che è stato ed è considerato, oltre che essere un premio Nobel, anche il padre dell'euro, intervistato al microfono dal nostro Paolo Piacenza. Allora, di nuovo in diretta, le dichiarazioni del ministro Tremonti al termine del vertice Ecofin. Ha detto che per quello che riguarda il deficit italiano nel 2008 il governo ritiene che sarà in linea con le previsioni. Ascoltiamo. Noi stiamo facendo i conti e a fine mese li avremo, non siamo particolarmente pessimisti. Ecco. Noi pensiamo di avere un risultato in linea con le previsioni, attualmente, però ci sarà evidenza in febbraio. Noi siamo relativamente... Lei pensa che se io pensassi di essere fuori, di aver sondato, sarei qui bello tranquillo a raccontarvi, sarei a Roma al telefono a dire smetti di fare, non firma quel decreto. La variazione di bilancio, per carità, l'anno prossimo, no? Le entrate sono state in linea con le previsioni, le spese sono in linea con il nostro programma di azione. Vi assicuro che in altri anni, in altri governi, in altri paesi, si sta a dicembre a rallentare i flussi di spesa, a deviarli, a chiamare i dividendi, a vendere della roba a fine anno. Noi siamo più tranquilli. Beh, visto che abbiamo criticato la norma sul 55% di detrazione per le spese energetiche, vale la pena ricordare che invece questo dato, cioè il deficit in linea con le attese, è un buon dato per l'Italia, perché noi siamo il paese in Europa che meno si può permettere un aumento del deficit, a differenza di quanto non stanno facendo invece Francia e Gran Bretagna, ma non solo per i parametri di Maastricht, quanto perché se poi peggiora il voto sul nostro debito ci tocca pagare allo Stato, e quindi a noi tocca pagare di più il rifinanziamento del debito, quindi aumentare gli interessi sul debito e tirar fuori ancora più soldi. Per quello che riguarda invece l'iter del decreto anticrisi, il ministro Tremonti non ha escluso la fiducia. Come succede in questi casi, noi prevediamo la possibilità di mettere la fiducia. Tuttavia, per come si è sviluppata la vita in Parlamento, alla Camera, abbiamo visto che non è necessaria. Molte volte non l'abbiamo messa, sulla finanziaria non l'abbiamo messa. Abbiamo fatto una buona discussione con l'opposizione, abbiamo avuto il voto dell'opposizione sui due emendamenti di variazione, tutto si è illuminato di verde e a quel punto era evidente che non serviva la fiducia. Su questo decreto vedremo. Detto molto francamente, noi abbiamo degli obiettivi di tempo e di importo molto importanti, non abbiamo intenzione di fare deviazioni, salvo che siano davvero costruttive e positive. E allora, questa è l'ipotesi che possa, non ha detto la certezza, vedremo, potrebbe essere messa la fiducia sul decreto. Dino Pesola, inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles, hai partecipato alla conferenza stampa anche del ministro Tremonti. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Un Tremonti tranquillo sul deficit, sul pacchetto anticrisi. Per inciso, si è parlato anche delle polemiche che sta suscitando l'aspetto retroattivo sul bonus del 55% per gli investimenti in risparmio energetico, che di fatto in 9 casi su 10 salterebbe, o no? No, questo non è stato oggetto di domande in conferenza stampa, ma d'altro canto il ministro Tremonti, diciamo, ha condensato buona parte delle sue comunicazioni nell'illustrare, diciamo, la parte del piano europeo che è quella, la fetta italiana. E sostanzialmente lui ha detto che dalle discussioni emerse in sede Ecofin è emerso sostanzialmente questo, cioè che la Germania, che è, come sappiamo, il paese motore, vero motore dell'Europa, pur avendo, diciamo, una situazione di bilancio che è decisamente più tranquillizzante rispetto all'Italia, perché ha un debito che è la metà del nostro, un deficit molto più ridotto, ha comunque deciso, come dire, di limitare la sua componente di interventi alla crisi a quello che ha già fatto, e quindi non intende impegnarsi oltremodo. In questo contesto la discussione ha preso una piega sostanzialmente di questo tipo: ogni paese ha illustrato quel che intende fare. In realtà, ancora una volta, si è avuta la dimostrazione che in Europa al momento, al di là di un coordinamento di massima delle singole politiche, nulla non di c'è più altro. Si può fare. Nulla di più si può fare. Per cui quando si dice pacchetto da 200 miliardi europeo, attenzione, perché in realtà sono, se ben ricordino, 30 miliardi europei veri. Il resto è la somma dei provvedimenti dei vari governi, ma che valgono per i vari paesi, non certo a livello europeo. Sono 170 miliardi che sono esattamente la somma dei piani dei singoli paesi. A questi 170 miliardi si uniscono 30 miliardi che sono attinti in parte dal bilancio comunitario, in parte dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Quindi possiamo desumerne che la parte di competenza dell'Europa è decisamente più inferiore, ma non potrebbe che essere così, perché come sappiamo l'edificio, diciamo, della costruzione europea è ancora largamente imperfetto. Comunque, al di là poi di questi limiti che sono strutturali, quello che emerge è che il piano europeo presenta delle indicazioni di percorso, poi ogni Stato deciderà cosa fare. Un esempio: il Regno Unito, che come sappiamo è fuori dalla moneta unica, ha deciso unilateralmente di utilizzare la leva dell'IVA, cioè ha ridotto l'IVA. L'intero Eurogruppo ieri sera ha dato una risposta negativa invece da questo punto di vista. Quindi, come dire, in questo caso l'Inghilterra va per conto suo. Ecco, ma non c'è l'Europa... il rischio temuto anche dalla Confindustria italiana che poi in questo modo si crei una concorrenza, una distorsione interna all'Europa? Perché è chiaro che se paese accanto a te porta l'IVA al 10%, cosa facciamo? Una rincorsa a chi abbassa di più l'IVA? Voglio dire, immaginiamo l'imprenditore che sta al confine, o il cittadino che va a comprare il bene al confine tra Italia, Francia, Italia ed Austria. Cioè, non c'è questo rischio? Se ne è discusso in Europa? Sì, il rischio senz'altro c'è, è un po' nelle cose, non è la prima volta che si determina una situazione di sperequazione, diciamo, tra i regimi fiscali all'interno dell'Unione Europea. Tremonti peraltro poco fa ha ricordato, peraltro con riferimento a un'altra questione che riguarda l'IVA, e vale a dire il raddoppio dell'IVA, ad esempio su Sky, ha ricordato che l'IVA è l'unica imposta, tra virgolette, europea, ma non è che una decisione che deriva da non si sa quale considerazione di politica economica, deriva dal fatto che attraverso l'IVA i singoli paesi finanziano il bilancio europeo, quindi sull'IVA l'Europa ha un'attenzione particolare. E per questo è ben difficile che poi i singoli paesi possano agire ognuno per conto proprio, e soprattutto nell'Eurogruppo, cioè nei paesi che sono uniti da una moneta unica, e la Gran Bretagna in questo fa eccezione ovviamente. Allora, visto che tu facevi riferimento alla vicenda Sky, la vicenda Sky è stata commentata anche dal ministro Tremonti, io intanto ringrazio di un paese in collegamento con noi da Bruxelles, sentiamo la spiegazione che ha dato il ministro Tremonti. Ha detto in sostanza l'impegno l'aveva già preso il precedente governo Prodi. Se un servizio è unico, l'aliquota deve essere unica, non può essere diversa. E questo lo trovate nella giurisprudenza della Corte e simmetricamente nella prassi della Commissione. La Commissione ha rilevato questa asimmetria, l'ha contestata al governo italiano. Il governo italiano, il governo Prodi, si è impegnato a eliminare l'asimmetria, si è impegnato ad allineare le aliquote. A questo punto i termini scadevano in questi giorni, se no partiva la procedura di infrazione, l'ennesima procedura di infrazione. A questo punto la scelta era portare tutti al 10 e portare tutti al 20. La scelta che abbiamo fatto è stata di allineare tutto al 20. Se mi chiede la mia valutazione personale, gliela metto in questi termini: toglietemi tutto tranne Sky. Però non c'erano alternative, e tra l'altro, e questo è l'unico passaggio polemico che voglio fare, io trovo inaccettabile da parte di tanti commenti, ma dicono aumentare l'IVA, che poi ha un impatto di 1 o 2 euro al mese, è una rapina, però dare 3 euro sulla carta acquisti col bonus, quella è un'elemosina. Allora, se voi date 3 euro al giorno a una persona che ha bisogno, quella è un'elemosina. Se fate pagare l'IVA di 1 euro o 2 in più al mese a uno che ha comunque Sky, quello invece è una rapina. Cioè, io credo che sia così immorale questo tipo di discorsi da non poter avere cittadinanza in un paese civile. Quindi ristabiliamo l'ordine delle grandezze. Così, ministro Tremonti, e concludiamo, perché sulla vicenda oggi è intervenuto anche Pierluigi Bersani, ministro ombra all'economia e al governo del PD. Sentiamo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Ma è sempre colpa d'altri, no? Questo siamo abituati, sempre colpa d'altri. Ma si vede che viene ribadita una scelta che ha una singolarità. Siamo un paese nel quale un presidente del Consiglio, che presiede un Consiglio dei Ministri, può tassare le sue imprese, quelle dei concorrenti, secondo criteri alla fine criteri suoi. Questo mi pare che non sia accettabile. Peraltro questa non è la sola questione. Adesso noi parliamo degli abbonamenti alle pay TV, ma cerchiamo di parlare anche degli ammortizzatori sociali, perché la vera debolezza di queste misure sta in quello che non fanno, prima ancora che in quello che fanno. Non si occupano di dare un rafforzamento di salari, pensioni e stipendi, non si occupano abbastanza di ammortizzatori sociali, cioè dei problemi concreti e pratici di questa crisi, blocca gli investimenti laddove si muovevano, toglie il 55% di sconto per ristrutturazione della casa, toglie i crediti d'imposta per la ricerca alle imprese. Quindi ecco, occupiamoci, io dico, di quel che fa, e fa di sbagliato questo decreto, ma occupiamoci anche forse di più di quello che non fa. E con questa dichiarazione di Pierluigi Bersani si conclude la puntata odierna di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata a voi in ascolto. Il programma ritorna domani dalle 17 in poi.